Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti da Magazine 24, il vostro appuntamento con le riviste settimanali e mensili. E questa mattina voglio cominciare da qualcosa di leggero e da proprio da un mensile, da Wired, è in edicola il numero di aprile. All'interno di Wired, tra le tante rubriche, Wired è un mensile, per chi non lo conoscesse, che si occupa di tecnologie, di tendenze tecnologiche, o come lo si definisce il mensile. Si stesso in copertina racconta storie, idee e persone che cambiano il mondo. Bene, tra queste persone che si occupano di segnalarci un po' il mondo in cui viviamo o come cambierà il mondo in cui viviamo, c'è Monica Marelli. Monica Marelli è un fisico e anche l'autrice di un volume, La fisica del tacco 12, e ogni mese lei smonta un prodotto di uso corrente, uno di quei prodotti che vediamo sempre attorno a noi nella nostra vita di tutti i giorni. Questo mese ha smontato l'ovetto di cioccolato. Per una forma di pudore non vi faccio il nome della casa produttrice, ma immagino che nessuno di voi abbia dei dubbi nel capire di che prodotto sto parlando. Perché lo smonta? Per spiegarci un po' che cosa c'è dentro e anche quali possono essere i suoi effetti benefici, ad esempio migliorare la memoria o, meglio se volete, evitare le amnesie. Quindi potrebbe essere anche una scusa per concedersi un momento un momento dolce a questo inizio di giornata. Allora, innanzitutto ci ricorda nella sua pagina che il cioccolato contiene la feniletilamina, che è una sorta di allucinogeno che il cervello produce quando si è innamorati, quindi il benessere che viene mangiando cioccolato sarebbe appunto legato a questa proprietà. E poi, venendo all'ovetto, proprio che è l'oggetto del suo lavoro, ci segnala che il cioccolato viene definito finissimo al 47%, basta che ci sia una percentuale al 43% per poterlo definire appunto finissimo. Poi racconta che ogni italiano consuma in media 4,2 etti di cioccolato all'anno. Se fossero naturalmente tutti ovetti, ogni ovetto pesa 20 grammi, vorrebbe dire che in un anno mangiamo 210 ovetti a testa. Si utilizza per produrre l'ovetto latte scremato in polvere. Perché? Perché, spiega Monica Marelli su Wired, è più comodo per le aziende utilizzare il latte in polvere, non ci sono problemi di stoccaggio che invece si hanno con quello fresco. Poi si parla di burro anidro, e il burro anidro è privo di acqua, spiega Monica Marelli, è composto dal 99% di grassi e racconta anche che se si rimane in casa senza burro si può farlo da sé. Bisogna sbattere con un frullino elettrico la panna fresca liquida e mentre si amalgama avviene la separazione tra parte acquosa e solida. Quella solida può essere raccolta, compattata con le mani e utilizzata. Quindi un modo per avere del burro a disposizione ripartendo dalla panna fresca liquida. E poi la dote, la virtù su cui possiamo puntare maggiormente, si è scoperto che il caffè zuccherato migliora la memoria, e poiché questa bevanda, il caffè zuccherato, ha in comune con il cioccolato alcune sostanze stimolanti che si chiamano xantine, fra cui appunto rientra la caffeina, allora l'ovetto del giorno dice potrebbe togliere l'amnesia di torno. Curioso e importante sapere che non si possono importare gli ovetti negli Stati Uniti, perché secondo la commissione che si occupa appunto della sicurezza dei consumatori, i giocattoli che sono contenuti all'interno degli ovetti, le sorprese all'interno degli ovetti, potrebbero essere pericolosi e quindi sono stati banditi. All'inizio di quest'anno, racconta Monica Marelli, una donna ha rischiato $300 di multa per importazione illegale di un ovetto dal Canada, e il pezzo si è aggiunto ai 25.000 ovetti che erano già stati sequestrati l'anno precedente. Quindi un divieto decisamente molto sentito e fatto rispettare negli Stati Uniti. Restiamo per un pochino su Wired. Wired offre sempre diversi spunti. Uno spunto che spesso è interessante è quello dato dalla rubrica Grandi Numeri. Grandi Numeri perché si prende un tema e si provano a segnalare alcune grandezze che ci danno lo stato delle cose. Ad esempio, sfatando un luogo comune, qui si scrive che l'Italia è un paese di geek, cioè di dediti, patiti della tecnologia. A dispetto dei luoghi comuni, scrive Wired, le rilevazioni raccontano una penisola piena di tecnologi e con una fiducia negli scienziati sopra la media europea. Una penisola soprattutto innamorata di Facebook. Il lavoro di raccolta dei numeri è stato fatto da Alberto Forni, i numeri sono moltissimi. Me ne segnalo solo un paio. Il 54% di noi italiani pensa che la credibilità degli scienziati su temi controversi come energia o medicina sia compromessa da finanziamenti industriali. Questo dato ve lo segnalo perché poi voglio passare a un altro magazine non italiano in cui si affronta proprio questo tema della credibilità scientifica. E tra le altre cose, che siano 16 milioni e 400 mila gli italiani invece registrati su Facebook, e ci posizioniamo così al 7° posto nel mondo. Sono quasi 9 su 10, l'87,4%, gli italiani che hanno in tasca tutti i giorni un telefono cellulare, percentuali molto inferiori per gli altri oggetti tecnologici. La chiavetta USB è tenuta in tasca da un terzo scarso degli italiani, il lettore MP3 da solo dal 21%, e poi si scende via via che si passa al PC portatile piuttosto che al mini PC. Tutto questo su Wired di aprile, già in edicola in questi giorni. Allora, vi dicevo, cambiamo tema e però restiamo vicini a questo problema della credibilità delle informazioni di tipo scientifico. Andando a leggere il Nouvel Observateur, settimanale francese di questa settimana, come era lecito aspettarsi, si trovano diverse pagine dedicate all'energia nucleare. L'incidente della centrale di Fukushima in Giappone ha naturalmente mobilitato anche i settimanali italiani, diversi contributi, diverse rubriche presenti questa settimana sulle testate italiane sono appunto dedicate all'energia nucleare, all'opportunità di proseguire o non proseguire il programma di sviluppo nazionale. Per i francesi la questione però è decisamente più sentita, perché, come abbiamo anche potuto leggere sui giornali, i francesi hanno un fortissimo ricorso all'energia nucleare, hanno un elevato numero di centrali. Alcune di queste centrali poi sono, oserei dire, un po' anziane, nel senso che sono state avviate negli anni 60 o nei primi anni 70 e quindi necessitano di robuste manutenzioni. Allora Guillaume Molory si occupa appunto delle centrali francesi sotto pressione e dice: in attesa di conoscere l'esito definitivo della catastrofe di Fukushima, l'autorità per la sicurezza nucleare in Francia ha cominciato a visitare le 34 centrali più vecchie, 34 reattori più vecchi in Francia, e l'ambiente, dice, è elettrico, con un gioco di parole, nel senso che ci sono diverse tensioni. Ad esempio, sulla centrale di Fessenheim, che è al confine tra la Francia e la Germania, che è una centrale tra l'altro tra le più anziane perché è entrata in esercizio nel 1977, si pensa di disporre la chiusura che naturalmente non rende contenta EDF, cioè la società che si occupa della gestione. Secondo i loro vertici non c'è nessun motivo di chiudere adesso Fessenheim può proseguire serenamente la sua attività, i dati sarebbero tutti confortanti a questo proposito. Però è spuntata di recente, in questi giorni, una lettera del 2003 in cui l'Istituto di Radioprotezione e di Sicurezza Nucleare aveva proprio scritto a EDF dicendo che c'era stata una certa, come dire, discrezionalità eccessiva nel giudicare quanto i siti fossero adatti e quanto le centrali fossero sicure. I termini erano molto burocratici. Poi Guillermo Loris si occupa di tradurre, dice: se vogliamo mettere in chiaro questa lettera, EDF avrebbe minimizzato i rischi che riguardano la localizzazione dal punto di vista del rischio sismico, la natura del terreno, e potrebbe non avere calcolato anche altri eventi catastrofici, come possono essere le inondazioni, ma anche, e lo spiega lui nell'articolo, lo ricorda, un particolare momento di canicola, di calore. Ricorderete che qualche anno fa la Francia fu proprio investita da questa ondata di caldo eccessivo. Questo provocò dei problemi appunto nel raffreddamento delle centrali. Divertente come può essere su questo tema la chiusura di questo articolo, perché dice un ingegnere nucleare che per ora è un attivista di Greenpeace, dice: il problema è che i funzionari che si occupano del nucleare hanno moltissime competenze ma spesso mancano di immaginazione. Ci vorrebbe magari l'immaginazione di un autore di fumetti, così potremmo immaginare che ci sono delle circostanze che si possono verificare, anche se noi pensiamo che non è impossibile che un certo rischio si presenti. E questo naturalmente quando si parla delle centrali nucleari, come stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane a Fukushima, può essere un argomento molto importante. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di energia nucleare, di centrali nucleari, di sicurezza delle centrali nucleari. Il tema è scottante, lo è per noi, lo è naturalmente anche di più probabilmente per i francesi, e infatti proprio da Nouvel Observatoire vi stavo segnalando una serie di articoli che fanno parte di un robusto dossier presentato appunto da questo settimanale. Il settimanale poi ha anche le voci a contrario, cioè c'è un ecologista che dice: no, dobbiamo mantenere la scelta dell'energia nucleare, non possiamo permetterci passi indietro, e presenta tutta una serie di considerazioni. C'è invece un non ecologista che dice: dobbiamo cominciare a uscire da questa dipendenza dal nucleare. Non possiamo darvi naturalmente memoria delle due testimonianze, però giusto per completezza, naturalmente chi vorrebbe un minore impegno, parliamo della Francia ma probabilmente anche in Italia, sull'energia nucleare pone in risalto soprattutto i temi della sicurezza, e sono temi che naturalmente in questi giorni ci fanno molto riflettere. Chi invece dice andiamo avanti, perché comunque questa è un'energia che poi si rivela anche più sicura di altre, pone in risalto altre questioni. Ad esempio Jean-Marc Iancovici, che viene sentito appunto come ecologista ma favorevole al nucleare, spiega che il nucleare è meno pericoloso della chimica o dell'estrazione del carbone, perché dice: se noi pensiamo a quello che è successo a Bhopal nel 1984, nessuno però ha detto di abbandonare le industrie chimiche, lì esplose un impianto chimico. O se pensiamo ai minatori che ogni anno perdono la vita appunto per estrarre il carbone, bene, dovremmo fare la stessa considerazione. E poi ci sono considerazioni sul costo dell'energia nucleare, sul costo di produzione e quanto potrebbe costare sostituire questo tipo di approvvigionamento con fonti cosiddette rinnovabili. I conti non sono, come dire, incoraggianti, perché per poter stare diciamo a un livello accettabile di sostituzione si tratterebbe di innalzare di molto il costo dell'energia, e questo avrebbe degli effetti pesanti non solo sul portafoglio delle famiglie ma anche su quello delle imprese, e poi si scaricherebbe una volta di più sui nostri consumi. Quindi la scelta anche di modificare la rotta non è affatto semplice. C'è un'ultima storia che viene ospitata da Nouvel Observateur, parla di nomadi del nucleare. I nomadi del nucleare, abbiamo poi verificato con Anita Panizza nel preparare questa puntata, di nomadi del nucleare se ne è parlato anche in Italia un annetto fa su Alias. Non ci sono però, non abbiamo rintracciato, comunque non siamo stati in grado di rintracciare fare altre citazioni. Sono le persone che si occupano delle operazioni di manutenzione più pericolose in assoluto nella centrale e sono persone spesso non dipendenti della società che gestisce la centrale, ma sono appunto delle persone che vengono chiamate da un posto all'altro e per uno stipendio abbastanza ridotto, perché qui si parla di 1.000-1.200 euro al mese, si spostano, vanno sulla centrale dove c'è bisogno di fare questa operazione di manutenzione. Sono operazioni che, essendo molto pericolose, devono concludersi al massimo entro 2 minuti. Questi signori si prendono chiaramente dei grossi rischi, ma non sono a tutti gli effetti dei lavoratori considerati, almeno in Francia, dei lavoratori addetti all'energia nucleare, perché appunto fanno questo lavoro in un modo nomade, viaggiando da una centrale all'altra. I nomadi del nucleare è il tema che si trova appunto insieme a tutti gli altri che vi ho segnalato sul Nouvel Observateur di questa settimana. Sfogliando poi questa rivista ho trovato che in Francia esiste un'organizzazione che consente di donare gli occhiali vecchi, quindi cambiamo completamente argomento. Non so se vi è mai capitato di avere un paio di occhiali, doverli sostituire e non sapere che farvene di quelli vecchi, perché magari o non vi piacciono più o sono cambiate le condizioni della vostra vista. Bene, in Francia esiste un'organizzazione che si chiama Lunettes Sans Frontières, è un po' un gioco di parole, se volete, con Medici Senza Frontiere, che è una delle più note organizzazioni appunto che si occupa di aiutare i paesi bisognosi con presenza di medici. C'è anche un'organizzazione, la trovate su internet, proprio a questo indirizzo, www.lunettesansfrontiere.org. È un'organizzazione che è stata avviata già negli anni 70 da un padre cappuccino e che prosegue. Ma allora, incuriositi, siamo andati a controllare anche in Italia, in realtà si fa questo tipo di raccolta. Trovate tutte le informazioni su www.raccoltaocchiali.org. Tra l'altro i Lions, che sono gli organizzatori di questa attività, organizzeranno per domenica prossima, 10 aprile, una giornata nazionale della raccolta degli occhiali usati. Che si fa con gli occhiali usati? Beh, naturalmente li si manda in quei paesi dove non è così facile procurarsi un paio d'occhiali, dove non è così facile acquistare un paio d'occhiali, e quindi gli occhiali vecchi vengono catalogati, servono anche occhiali da sole, ho scoperto, e vengono poi inviati appunto tramite le missioni, tramite le onlus che si occupano di sostenere i paesi in via di sviluppo, i paesi più bisognosi, laddove appunto non esistono né gli ottici né spesso gli oculisti, e così si può magari dare più possibilità di vederci a delle persone che sarebbero impossibilitate avere gli occhiali. Per l'Italia www.raccoltaocchiali.org, se vi piace l'iniziativa francese www.lunettesansfrontières.org. Allora, siamo quasi in chiusura della nostra puntata. Vi volevo segnalare una cosa su Famiglia Cristiana, una curiosità che riguarda il nostro paese. La prima imposta sul reddito dell'Italia Unita. Perché? Perché Alberto Chiara ha sentito Rossella Orlandi, che è il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte. Rossella Orlandi ha fatto, proprio in occasione dell'anniversario del 150enario dell'Unità d'Italia, un lavoro insieme alle scuole di storia fiscale dell'Unità d'Italia. Informa tra l'altro appunto che i 7 stati dell'Italia preunitaria avevano 7 sistemi di tassazione differenti, alcuni applicavano imposte solo sugli affari, altri invece no, e il Regno d'Italia però di fatto, ricorda l'Orlandi, nacque indebitato, si trascinava dietro le spese delle guerre. La prima imposta sui redditi della nostra storia unitaria è del 1864, entrò in vigore il 14 luglio del 1864, aveva una sola aliquota, cioè una sola percentuale di prelievo dell'8%, e mutava però il tetto imponibile, spiega che il reddito da lavoro era imponibile, cioè era tassabile, solo al 62%, per arrivare allo schema progressivo che conosciamo adesso, cioè per cui la tassazione va a crescere del reddito. Abbiamo poi avuto bisogno della Costituzione italiana, appunto dell'Italia repubblicana, con le indicazioni della Costituzione. Allora, un'ultimissima cosa, parlando ancora d'Italia, ma una cosa molto più frivola, molto più leggera. Miss Italia, sapete che non si farà più a Salsomaggiore? Scopro da Sorrisi e Canzoni TV un'intervista a Patrizia Mirigliani, figlia del noto patron del concorso, che ci sono delle richieste da Sanremo, ma è spuntata anche Rapallo e dice lei chi ha detto che non possa essere Montecatini. Quindi queste tre probabili location per il concorso di Miss Italia del prossimo autunno. E noi con questa segnalazione ci concludiamo la puntata di Magazine 24 di oggi. Vi ricordo che se volete scriverci potete farlo a magazine24@radio24.it. Sul nostro sito www.radio24.it trovate anche tutte le informazioni su questo programma e su tutti gli altri programmi naturalmente di Radio 24. Grazie a Valeria Bernardi questa mattina in regia, grazie ancora ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma e buona domenica a tutti.